Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Tra le tante leggende metropolitane c'è quella di un giapponese barricato nella giungla in qualche isoletta del Pacifico che si rifiuta di cedere le armi e spara a chiunque si avvicini. E per anni tutti abbiamo pensato che fosse una delle tante storie che si diffondono non si sa come. Bene, oggi vi raccontiamo una storia vera, proprio quella storia, la vicenda di Hiro Onoda, che è l'ultimo giapponese che si è arreso dopo la sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Una resa che è giunta nel 1974, a 29 anni dalla fine del conflitto e dalla capitolazione dell'imperatore giapponese Hirohito. E tra l'altro c'è da chiarire un equivoco storico, perché il protagonista della nostra storia di oggi ufficialmente è il penultimo soldato a essersi arreso, è l'ultimo giapponese, perché qualche mese dopo la sua resa dalla giungla dell'isola filippina di Morotai è emerso un altro irriducibile conosciuto come Teruo Nakamura, soldato dell'esercito imperiale del Giappone. Beh, però in realtà Nakamura non era neanche giapponese, era un aborigeno di Taiwan arruolato in una divisione di indigeni per combattere nel Pacifico sotto l'insegna del Sollevante. Una storia diversa che magari racconteremo, però oggi parliamo di questo eroe di altri tempi, Hiro Onoda, e della sua straordinaria vicenda. Seconda Guerra Mondiale, Pacifico, mentre in Europa la partita degli alleati anglo-americani si gioca contro Hitler e Mussolini, dall'altra parte del mondo gli americani combattono una guerra soprattutto navale contro i giapponesi. È l'asse Roma-Berlino-Tokyo. Non a caso il nome Roberto era molto popolare in quegli anni proprio per quel motivo, Roma-Berlino-Tokyo. E la guerra dall'altra parte dell'oceano è contro i giapponesi, che con l'attacco a Pearl Harbor hanno scatenato gli Stati Uniti, convincendoli a entrare nel conflitto mondiale. Il 7 dicembre è stato un giorno nero. Pearl Harbor, Hawaii. Quello stesso giorno, dall'altra parte della linea di cambio della data, era l'8 dicembre e posti chiamati Guam, Wake, penisola di Malay, Hong Kong, isole Filippine, sono stati ugualmente attaccati dalle forze terrestri e aeronavali dell'impero giapponese. I giapponesi stanno tentando di impadronirsi della metà del mondo e vorrebbero tenerselo, seminando morte da cielo, terra e mare. Il nostro teatro di guerra sarà il Pacifico. I Marines combatteranno i giapponesi in luoghi sconosciuti di cui non sappiamo neanche pronunciare il nome. Nella Seconda Guerra Mondiale il tenente Hiro Onoda entra il giorno di Santo Stefano del 44. Il 26 dicembre viene inviato infatti sull'isola di Lubang, nell'arcipelago delle Filippine. Onoda è un membro della classe di comando Futumata Bunko, una sorta di elite militare nipponica. È stato addestrato alla guerriglia nella prestigiosa scuola militare di Nakano dai servizi segreti ed è per questo che in quei giorni della fine del 44 viene spedito sull'isola di Lubang e lui ha solo 22 anni. L'ordine: rallentare l'avanzata nemica insieme ai militari giapponesi già presenti sul campo. Le indicazioni del comando dell'esercito imperiale giapponese sono chiare e perentorie. Non ti è concesso di arrenderti. Qualsiasi cosa accada, torneremo a prenderti. Dovrai vivere di noci di cocco se sarà necessario. Non dovrai arrenderti in nessun caso. Non è concesso arrendersi. Bisogna mantenere le posizioni con imboscate e azioni di guerriglia. Non è concessa la resa e neanche il suicidio rituale, il seppuku. Bisogna restare lì, aspettare rinforzi. Per Hiro non ci sono dubbi. È stato addestrato per questo. È un membro dell'intelligence, conosce l'inglese e il cinese, è molto colto. Sentiamolo in un'intervista. Ogni soldato giapponese era pronto a morire. Ma io, in qualità di ufficiale dell'intelligence, ero destinato a condurre le operazioni di guerra, non a morire sul campo. Ero comunque un soldato e questo mi obbligava a seguire gli ordini. Ero un ufficiale con un ordine ben preciso. Se non lo avessi portato a termine, sarebbe stato un vero disonore per me. Ma nel frattempo il generale MacArthur, che nel 42 ha dovuto subire un'umiliante e storica ritirata dalle Filippine, ha fatto una promessa: riprendersele. E nel 44 comincia la campagna che lo porterà a sconfiggere i giapponesi. Popolo delle Filippine, sono tornato. Per grazia di Dio Onnipotente, i nostri uomini calcano ancora una volta la terra delle Filippine, terra consacrata dal sangue dei nostri due popoli. Siamo tornati, determinati a distruggere ogni traccia di controllo nemico sul vostro popolo. L'ora della vostra redenzione è giunta. La campagna di MacArthur arriva all'isola di Lubang, dove si trova Onoda, il 28 febbraio del 45. I Marines conducono un attacco violento in forze che annienta la stragrande maggioranza delle forze giapponesi. Ma non tutti i militari del sollevante muoiono o si arrendono. Alcuni si nascondono nel fitto della giungla, pronti a una resistenza a oltranza. E tra questi c'è Hiroo Onoda. Il falco e il gabbiano. In genere abbiamo raccontato colpi d'ala che nella vita delle persone sono stati gesti di breve durata, lampi e scelte semplici che determinano poi una strada che la vita prenderà. Bene, oggi stiamo raccontando di un colpo d'ala lungo 29 anni. È il caso di Hiroo Onoda, che rifiutò di arrendersi quando il Giappone fu sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale. In realtà non seppe neanche che il Giappone era stato sconfitto. Eseguì l'ordine di non cedere le armi al nemico per 29 anni. Lasciato a tenere la posizione contro l'avanzata dei Marines americani sull'isola filippina di Lubang insieme alle truppe imperiali giapponesi, Onoda era lì quando le truppe statunitensi sbarcarono. Fu un attacco violento all'americana, definitivo, con la eliminazione della quasi totalità dei soldati nipponici. Ormai l'isola è persa, ma l'ultimo ordine che Onoda riesce a ricevere è chiaro: rendersi invisibile e mettere in atto azioni di guerriglia per rallentare l'avanzata del nemico. E il tenente esegue. Insieme a tre commilitoni prende la via delle montagne e si nasconde. È la primavera del 45. Onoda, da quel momento, non ha più contatti con il comando giapponese. Nessuna notizia, neanche quelle che sconvolgono il mondo, perché il 6 agosto e poi tre giorni dopo il 9 agosto le bombe atomiche americane si abbattono su Hiroshima e Nagasaki. E a Onoda non arrivò l'eco di quella tragedia, di quelle esplosioni atomiche, di quella terrificante novità bellica messa in atto dagli americani. Tra i 100 e i 200 mila morti diretti, quasi tutti civili, senza contare i decessi successivi per le radiazioni, il tutto in sole due esplosioni. Il primo e, per fortuna per ora, unico utilizzo di armi di distruzione di massa nella storia dell'umanità, o comunque di quel tipo di armi di distruzione di massa. Onoda non sa niente di quegli eventi, di quelli che porteranno rapidamente alla resa del Giappone meno di una settimana dopo la bomba di Nagasaki. Non gli tocca nemmeno ascoltare quello che nessun giapponese avrebbe mai immaginato di sentire: la voce di un semidio, l'imperatore del Giappone Hirohito, che dichiara la resa invitando il suo popolo a sopportare l'insopportabile. Nonostante siano stati fatti i migliori tentativi, la situazione bellica non si è sviluppata a vantaggio del Giappone e il corso mondiale si è voltato contro i nostri interessi. Ancor di più, il nemico ha cominciato a sviluppare una nuova e molto più disastrosa bomba, il cui potere di distruzione è realmente incalcolabile e in grado di togliere molte vite innocenti. Se dovessimo continuare a combattere, non ne risulterebbe che un completo collasso e una cancellazione della nazione giapponese, che condurrebbe anche alla totale estinzione della civiltà umana. Le difficoltà e le sofferenze a cui la nostra nazione sarà soggetta di qui a poco saranno certamente grandi. Tuttavia, è in base allo scorrere del tempo e del fato che abbiamo deciso di aprire la strada ad una grande pace per tutte le generazioni a venire, sopportando l'insopportabile e soffrendo l'insoffribile. È una situazione che nessun giapponese avrebbe mai immaginato di vivere. È una umiliazione. Mentre Onoda continua a tenere sotto controllo le installazioni sull'isola e organizza imboscate e soprattutto tiene la posizione, il Giappone precipita nel dramma. Molti giapponesi si suicideranno perché non potranno sopportare l'immagine di uno spocchioso generale MacArthur in camicia in maniche corte rimboccate di fronte al loro imperatore, a un semidio, all'imperatore Hirohito. La corazzata USS Missouri, con una portata di 53.000 tonnellate, diventa oggi lo sfondo di una cerimonia indimenticabile che segna la completa e formale resa del Giappone. Proprio nella baia di Tokyo sta sfilando l'artiglieria navale degli Stati Uniti d'America, recando con sé i delegati delle forze alleate per testimoniare la capitolazione. È presente il generale MacArthur, comandante supremo delle forze alleate per l'occupazione del Giappone. E intanto su quell'isola delle Filippine l'ufficiale Onoda e i suoi uomini sono lì a tenere la posizione. Nel 49 un soldato semplice di prima classe, Yuichi Akatsu, lascia il gruppo, si allontana e poche ore dopo si arrenderà, mettendo a conoscenza della diplomazia giapponese la notizia dell'esistenza dei suoi compagni. Nei mesi successivi alla fine della guerra tantissimi soldati si erano rifiutati di arrendersi. Era un vero fenomeno quello dei soldati fantasma, la cui resistenza era legata soprattutto al rigido codice etico dei Bushido, per cui la resa era assolutamente disonorevole. Nel giro di pochi mesi quasi tutti i soldati fantasma consegneranno le armi oppure verranno catturati. Solo alcuni elementi isolati o piccolissimi gruppi andarono avanti a combattere e a resistere anche per qualche anno, e tra questi lui, il nostro hero Onoda. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Hiro Onoda, il leggendario ultimo giapponese combattente nella Seconda Guerra Mondiale, quello che per ultimo si arrese e cedette le armi. Lasciato su un'isola filippina per organizzare la guerriglia contro i Marines nella primavera del 45 a 22 anni, eseguì gli ultimi ordini ricevuti per i successivi 29 anni, fino al 1974. È una figura vicina al mito, però in realtà una figura verissima. È il 49, uno dei tre commilitoni di Onoda lascia il nascondiglio sulle montagne e si arrende. Racconta alle autorità che nella giungla dell'isola di Lubang c'è il tenente Onoda insieme con altri due soldati. E non è che tiene solo la posizione aspettando rinforzi. Onoda combatte, attacca chiunque gli passi a tiro, spara ai contadini, dall'assalto ai villaggi a valle, organizza imboscate. Per convincerlo che la guerra è finita da un pezzo, le autorità nipponiche e filippine organizzano anche dei lanci di volantini. È tutto finito, arrenditi, ma lui non ci crede. Del resto è un ufficiale dell'intelligence e i trucchi del genere li conosce molto bene. I volantini che trovavo in giro erano pieni di errori, così pensai che facessero parte di un complotto a opera degli americani. Certo, uno così vede degli errori di scrittura nel volantino e non ci casca, tiene duro. Lui e i suoi due soldati rubano cibo e vestiti ai contadini della zona, diventano dei veri esperti nella sopravvivenza. Quei volantini, quelle foto che di tanto in tanto arrivano dal cielo non le prendono sul serio, non prendono sul serio neanche la radio australiana, che riescono a captare, come ci conferma proprio lui, Onoda. Ma minna, chi non dà con il... Ascoltavo la radio australiana. Una volta mi capitò di sentire una trasmissione elettorale australiana, mentre un'altra volta ascoltai un bel programma sull'allevamento di animali. In seguito mi aiutò a diventare un allevatore. Nel 54 un altro dei compagni di resistenza, Soichi Shimada, muore durante uno dei tanti scontri a fuoco con la popolazione locale, e nel 59 lo status di Hiro Onoda cambia da disperso a legalmente morto, una sorta di Fumattia Pascal nipponico. Passano ancora altri 10 anni. Nel 72 Onoda e il suo ultimo compagno rimasto, Kozuka Kinshichi, stanno mettendo in opera una delle solite azioni di guerriglia: bruciano il raccolto di riso dei contadini. La guerra è finita da anni, loro imperterriti continuano ad andare in giro a sparare, a bruciare raccolti, a combattere la loro folle e isolata guerra personale. Vengono scoperti nello scontro a fuoco che segue. Kozuka viene colpito a morte, Onoda riesce a scappare e rimane solo. Quando il corpo di Kozuka viene riconosciuto come un commilitone di Onoda, la famiglia del tenente ricomincia a cercarlo, prima la sorella e un gruppo di amici e poi il padre, ma non lo trovano. Al caso dell'ufficiale giapponese si appassiona un esploratore che si chiama Norio Suzuki, decide di andarlo a cercare e dichiara: voglio trovare il tenente Onoda, un panda e l'abominevole uomo delle nevi, in quest'ordine. Gli ci vogliono 4 giorni di ricerche nella giungla, alla fine lo trova, si trova di fronte a questa leggenda. Onoda sta per sparargli, Suzuki urla: Onoda-san, l'imperatore e il popolo giapponese sono preoccupati per te, tanto basta a salvarsi la vita e ad avvicinare il militare. Gli parla, prova a convincerlo che la guerra è finita, ma Onoda non molla, chiede una prova inconfutabile. Questo ragazzo hippie, Suzuki, giunse nell'isola per ascoltare le mie ragioni. Mi chiese perché non uscivo allo scoperto. Gli risposi che se la guerra era finita per davvero sarei uscito, ma solo se un mio superiore me lo avesse ordinato. E allora Suzuki è costretto a tornare in Giappone con le foto di Onoda, e in una di queste lo si vede assieme al tenente seduto in mezzo alla vegetazione mentre regge sorridente il suo fucile della Seconda Guerra Mondiale. Con le prove fotografiche Suzuki convince davvero il diretto superiore di Onoda, il maggiore Taniguchi, che nel frattempo è diventato un libraio perché la guerra è finita da decenni. Lo convince a tornare con lui sull'isola di Lubang per ordinare all'ultimo dei soldati fantasma di arrendersi. Succede proprio così. Onoda decide, piangendo, di deporre il suo fucile perfettamente funzionante. Osservai attentamente il maggiore. Passarono parecchi secondi. Lo zaino sulla schiena mi parve di colpo pesantissimo. Per la prima volta capii che non c'era nessun sotterfugio, nessuno stratagemma. Tutto quello che avevo sentito era vero. Lo zaino si fece ancora più pesante. A poco la tempesta si placò e per la prima volta capii senza ombra di dubbio. I miei 30 anni di guerrigliero dell'esercito giapponese si erano conclusi di colpo. Era la fine. Tirai indietro l'otturatore ed estrassi le pallottole. Beh, è una scena meravigliosamente cinematografica. Nel momento della resa formale l'autorità, lui indossa la sua vecchia uniforme. A 52 anni, a chi gli chiede cosa abbia pensato in quei 29 lunghi anni della giungla, lui risponde: niente, ho pensato solo a compiere il mio dovere. Nei 3 decenni di guerra privata, Hiro Onoda ha ucciso 30 contadini filippini. Nonostante questo, il presidente delle Filippine, Marcos, gli concede la grazia immediata, lo riceve insieme alla moglie Imelda con tutti gli onori. Anche il suo ritorno in Giappone, salutato dalle autorità e dalla gente comune, dai media, con grandissimo clamore. La sua storia rimbalza di televisione in televisione, lui diventa immediatamente il simbolo dell'abnegazione e del senso del dovere di un popolo. Viene premiato in molte cerimonie, gli chiedono perfino di candidarsi in Parlamento. Fu insignito qui, al tempio Yasukuni, perché mi avevano dato per morto. Si pensa che questo tempio custodisca le anime dei caduti, ma dal momento che non sono morto, il mio spirito non è stato custodito qui. Li ho ingannati. Beh, naturalmente il ritorno nel mondo, nel suo Giappone, 30 anni dopo, non è semplice. Onoda non si trova più a suo agio in una realtà che è cambiata totalmente, mentre lui viveva nascosto nella giungla filippina e il Giappone diventava uno stato pieno di tecnologia, assolutamente all'avanguardia nel mondo, ma profondamente diverso da quel Giappone. I valori che il tenente aveva lasciato nel 45 lui non li ritrova più. La filosofia e la mentalità del Giappone erano cambiate radicalmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e quel nuovo modo di pensare si scontrava con la mia mentalità. Così me ne andai a vivere in Brasile. Sì, perché in Brasile c'è suo fratello Toshido, lui va in Brasile nel 76, si sposa e tutto sommato ricomincia a vivere lo scampolo di vita che gli rimane in una maniera normale. Tornerà in Giappone anni dopo, nel 1984, scrive un libro sulla sua esperienza che diventerà un bestseller, si intitola nell'edizione inglese No Surrender, My 30 Year War, Nessuna Resa, i 30 anni della mia guerra, e a Tokyo fonda una scuola per bambini, la Shizenyuku Onoda, la scuola naturale Onoda, dove insegna tra l'altro tecniche di base di sopravvivenza, come accendere il fuoco con i legnetti, riconoscere bacche e frutti nella giungla. Vive una specie di seconda esistenza dopo tutti quegli anni passati in quel modo così surreale. Torna sull'isola di Lubang, dove è stato 29 anni, ci torna nel 96, chiede ancora una volta pubblicamente scusa, dona $10,000 a una scuola elementare del posto. Hiro Onoda, ultimo soldato giapponese ad arrendersi, muore all'inizio del 2014 in un ospedale di Tokyo, dove era stato ricoverato per problemi cardiaci. Aveva 91 anni, 29 dei quali passati a non arrendersi. Ci sono storie sconosciute oppure che crediamo di conoscere perché sono leggende e invece sono storie vere, come il colpo d'ala durato 29 anni di Hiro Onoda, l'ultimo uomo per il quale è finita la Seconda Guerra Mondiale, perché lui ha pensato che il suo dovere era quello di tenere le posizioni e non arrendersi. Ognuno di noi può rischiare di cadere, può anche sacrificare tutta la sua vita per tenere alta la bandiera del suo onore, come ha fatto lui. E se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre storie, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite sui miei, sui nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.